Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Una nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Cominciamo subito con un brano. Eccolo qui. Probabilmente no, avete capito che il brano è brevissimo, non avete capito bene il testo, però le ultime parole di questa canzone brevissima dei The Secret Prostitutes vi spiegherebbero moltissimo, anzi vi spiegano moltissimo della puntata dello Zibaldone di quest'oggi. Però do subito il bentornato e auguro buon pomeriggio all'ergonomico Banzo. Banzo, rieccoci qui, bentornato, ultima puntata prima delle vacanze di Pasqua. Insomma, dici tu il titolo della canzone e il perché di questa scelta, perché insomma questo avrà a che fare con l'ospite e la tematica di quest'oggi. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, è tutto vero, confermo tutto e passo ad annunciare il titolo del brano, che è Partai Comunis Indonesia, che penso si capisca, significa partito comunista indonesiano o dell'Indonesia, non so la grammatica dell'indonesiano, che pure è molto semplice, ed è sì un brano dei Secret Prostitutes che serve a introdurre il tema della puntata, perché parleremo della storia del Partito Comunista Indonesiano, un argomento del quale sono pronto a scommettere non sapete nulla o quasi nulla. E d'altronde, non lo dico per... È vero, sono d'accordo con te. Il gusto della smargiassata, è un argomento del quale io stesso non sapevo nulla fino a pochissimo tempo fa, poi ho letto il libro che presenteremo quest'oggi, Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidi in Indonesia 1914-1968, scritto da una vecchia conoscenza di Zibaldone, Nicola Tanno, e diciamo che lì ho cominciato a rendermi edotto sulla storia del Partito Comunista Indonesiano, che è molto interessante. Eh sì, è molto drammatica appunto per la fine, insomma l'hai detto anche nel titolo, insomma un genocidio davvero dimenticato e enorme, parliamo tra il mezzo milione e il milione di persone. Comunque insomma poi ne parleremo con Nicola Tanno, che è l'ospite di questa puntata di Zibaldone, parleremo con lui di questo libro che tra l'altro è uscito da pochissimo, la settimana scorsa. Banzo, rapidissimamente, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma telegrafico sul brano che abbiamo ascoltato, e poi anche perché accompagniamo un po' questa puntata con altre canzoni che vengono da diverse epoche della musica indonesiana. Dopo ci andiamo ad ascoltare un altro brano di tutt'altro genere. Esatto, allora sul brano d'apertura posso dire che forse ricorderete, i nostri ascoltatori più fedeli ricorderanno i Secret Prostitutes da una puntata del gennaio di 2 anni fa, la raccolta di cover dei CCCP, c'erano anche i Secret Prostitutes con Live in Panko, con una pronuncia italiana veramente discutibile. Ecco, questo è il brano subito successivo nello stesso disco, che ha un titolo chilometrico, e siccome il tempo è tiranno, non lo dico, e lo cantava Adit Samuder, il batterista indonesiano del gruppo, mentre gli altri due erano americani, ed erano molto contenti di non cantare in inglese, ricordo di aver letto un'intervista. Ma passiamo al prossimo brano, che, come hai detto tu, è di un genere molto diverso. Andiamo su beat pop, mi sono incartato fra i due generi, stavo dicendo bop, con Lilis Suliani, una cantante molto celebre per tutti gli anni 60 indonesiani fino agli anni 70, che ha avuto, ecco, in questo genere musica occidentale in Indonesia, in un momento in cui, ce ne parlerà Nicola, c'era anche una forte spinta anticolonialista, ecco, Sukarno, che all'epoca era il leader del paese, leader è una definizione riduttiva, diciamo che criticava aspramente la musica occidentale in Indonesia, aveva anche il potere di vietarla effettivamente, E quindi la carriera di Lily Suliani è stata un po' orientata da questo, da questa, diciamo, direttiva esterna, Steven. Abbiamo questo brano che è il suo, uno dei suoi primi successi, Gang che Linci, letteralmente la gang dei conigli, scritta da Titi Ekpuspa, forse la prima vera cantautrice indonesiana, ma anche attrice cinematografica. E diciamo che l'ostilità del governo, perché questo brano criticava la cosiddetta democrazia guidata, della quale credo che ci parlerà Nicola, e dovette Suliani fare un rapidissimo dietro front, perché nel 65 dedicherà un'ode a Sukarno dalle tinte, diciamo, fantozziane. È un bel presidente, diciamo, non stiamo a dettagliare. Poi, con il golpe di Suharto, e qui sto facendo spoiler, continuerà la sua carriera con, diciamo, un'attitudine politica piuttosto prudente, forse dedicandosi più al pop. Tra l'altro, brevemente direi solo che Sukarno aveva insomma reso difficile la vita ai musicisti e ai cantanti agli inizi degli anni 60, e aveva anche cercato di, appunto, mettere fuori legge il rock and roll, che aveva ribattezzato in modo dispregiativo, giocando un po' con le sonorità, Ngak Ngik Ngok, no? Che è una cosa un po' ironica, ma anche insomma triste, questa, direi, Banzo. Ascolta, andiamo a ascoltarci. Comunque, dimmi. A 60 anni di distanza, la scena rock indonesiana è enorme, quindi direi che il suo tentativo dell'epoca non ebbe poi successo. Ascoltiamoci questa Gang che Linci, Lily Suriani, e poi parliamo con Nicola Tanno. Jakarta, kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan, rumahku di salah satu gang, namanya Gang Kelinci. Entah apa sampai namanya kelinci, mungkin dulu kerajaan kelinci. Karena manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terdesak. Sekarang rumahnya bejubu, oh padat penghuninya. Oggi il nostro ospite, come sapete, è Nicola Tanno. Con lui parliamo di Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidio in Indonesia 1914-1968, che è uscito da pochissimo, proprio la settimana scorsa, per i tipi di Mimesis. Nicola Tanno aveva già scritto anche un altro libro, ne avevamo parlato, ma ormai veramente parecchi anni fa, qui a Zibaldone, Tutta colpa di Robben, e collabora tra l'altro anche con Jacobin Italia. Nicola, un piacere averti di nuovo con noi. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Ascolta, Nicola, una cosa importante per cominciare, perché questo libro tratta di un tema, io credo, fondamentale, di una storia che pochi conoscono in Italia, ma in genere io direi in Europa occidentale, che ha a che fare appunto con la storia dell'Indonesia, del Partito Comunista, del Movimento dei Lavoratori lì, e soprattutto in un snodo cruciale, che è quello della fine degli anni 60. Comincerei proprio da qui, insomma, come sei finito a voler scrivere, quindi a fare delle ricerche per anni su una storia come appunto quella del Partito Comunista Indonesiano? Sì, no, una bella domanda perché tutti sempre mi chiedono che cosa c'entro io con l'Indonesia. No, io tutto nasce da, insomma, da una domanda. Com'è possibile che uno dei più grandi genocidi del Novecento, che ha portato alla morte tra il 500.000 e il 1.000.000 di persone, sia praticamente del tutto sconosciuto in Europa? Com'è possibile che anche a sinistra, per esempio, che giustamente, io sono il primo a farlo, ricordo i colpi di Stato in Cile o in Argentina, ci sia un'ignoranza completa su un massacro sterminio di massa che è molto superiore in termini quantitativi, perché appunto in Argentina si parla giustamente di 30.000 persone, in Indonesia parliamo quasi 1.000.000 di persone, e quindi da lì scattò una decina di anni fa in me una curiosità, no? Che cosa è successo? Perché davvero nessuno ne sapeva nulla, quindi ho iniziato a leggere tutto quello che è stato scritto sull'argomento, da prima in italiano, l'unico libricino che era uscito 25 anni fa, e poi ho praticamente letto tutti i volumi scritti in inglese, ho anche imparato un po' l'indonesiano, insomma da qui in avanti ho iniziato a scrivere articoli sul tema. E mi sono reso conto che ne sapevo così tanto che potevo pure scriverci un libro, quindi insomma eccolo qui. È un libro appunto, no, hai ragione, è importante perché praticamente è l'unico libro disponibile in Italia, scritto da un italiano, ecco, perché le traduzioni dei testi che tu insomma ti sei letto dall'inglese o da altre lingue insomma sono piuttosto assenti, no, nella nostra lingua, sì, nel nostro paese. Ma entriamo un po' in questa storia, perché al di là della fine drammatica su cui poi torniamo, no, siamo alla metà degli anni 60 con questo genocidio che insomma ha dei numeri, tu l'hai appena detto, tra il 500.000 e il 1.000.000, che hanno dell'incredibile, soprattutto per il fatto che pochissime persone sono coscienti di quello che è successo in Indonesia allora. E quali pensi che siano state le caratteristiche fondamentali del comunismo indonesiano? Facciamo quindi un passo indietro e insomma, visto anche dall'Europa che differenza c'era tra il PKI, il Partito Comunista Indonesiano, e invece i partiti dell'Europa occidentale, comunisti, certo, della seconda metà del Novecento. Certo, beh, una bella domanda, e ti dirò che in realtà le similitudini tra il PKI e per esempio il Partito Comunista Italiano sono maggiori di quelle che tu potresti immaginare. Andiamo un po' per gradi. Il Partito Comunista Indonesiano era un partito che era soprattutto un partito nazionalista. Può sembrare strano sentire questa cosa, ma in realtà era composto soprattutto da ragazzi, pensa che la leadership era giovanissima, il capo di Padun Nusantara Aidit divenne segretario generale a 28 anni ed è morto a 41, erano tutti ragazzi che avevano combattuto nella guerra di indipendenza contro i Paesi Bassi, quindi tra il 45 e il 49, anche precedentemente erano tutti molto attivi, diciamo, in questa battaglia per l'indipendenza, quindi erano animati da un grande sentimento nazionale, che poi hanno sfogato non più contro i Paesi Bassi ma contro gli Stati Uniti d'America. Quindi innanzitutto esisteva un grande sentimento di patriottismo, chiamiamolo in questo modo, di unità nazionale. Tu pensa che l'Indonesia era un paese, ed è ancora un paese, composto da moltissime isole con molte lingue diverse, con un certo pluralismo religioso. Quindi il nazionalismo è un collante che appunto insomma cerca di tenere unito questo paese così, così diverso. Ed un partito che si è sviluppato in un contesto difficile, perché in un arcipelago non è facile sviluppare un'attività politica. Certo. E tu pensi, l'Indonesia era un paese, ed è ancora, io parlo al passato perché la storia finisce negli anni 60, in cui l'esercito aveva un potere smisurato, un potere politico, economico, ed era presente praticamente in tutti i comuni del paese, con un suo rappresentante che affiancava il rappresentante civile. Quindi era un partito inevitabilmente che per sopravvivere ha anche acquisito una linea moderata, per cercare di appoggiarsi al capo dello Stato, il carismatico Sukarno, che era come una sorta di sultano laico del paese, e cercare appunto di guadagnare attraverso la ripetizione delle parole d'ordine di Sukarno, soprattutto in politica estera, spazio politico, ma senza mai cercare di scontrarsi fisicamente, militarmente con l'esercito. Il PKI era ben cosciente consapevolezza del fatto che sul piano militare era destinato a soccombere, e per questo cercava di crescere attraverso grandi mobilitazioni di massa, attraverso la costruzione di grandi associazioni di massa in tutti i settori della società, dai sindacali, dalle associazioni femminili, dalle associazioni dei contadini, dalle associazioni degli intellettuali. Quindi era uno, possiamo dire anche uno stato dello Stato, cioè un'organizzazione di massa che tra l'altro fu fondamentale per l'alfabetizzazione di milioni di persone. Ovviamente l'altro lato della medaglia di questa strategia, che fu efficace per la sua crescita, era il fatto che era un partito debole sul piano militare, nel piano della lotta di classe, quindi quando l'esercito poi, come vedremo, decise di stroncarlo, non ebbe nessuna capacità di reazione, ed è impressionante che un partito così grande sia stato distrutto completamente, dal punto che non esiste nessuna memoria, diciamo, di questo partito. E su questo dopo anche infatti vorrei domandarti qualcosa sulla memoria e se sono cambiate le cose, ma prima... volevo approfondire un paio di punti, no? Tu hai perfettamente ragione, no? A mettere in luce anche la radice nazionalista, antiimperialista, che poi in fin dei conti si collega, anche se pensiamo alla stessa traiettoria di Fidel Castro nella Cuba degli anni 50, eccetera, ma anche ad altri casi. Però ti volevo domandare, tenendo conto appunto il ruolo di Sukarno nella nascita alla metà degli anni 50 dei paesi non allineati da una parte, e dall'altra il contesto internazionale, e penso pensando a dov'è l'Indonesia dal 1949, la vittoria di Mao in Cina dopo la guerra civile, no? Contro Chiang Kai-shek, e dall'altra anche le tensioni che poi soprattutto negli anni 60 si danno tra Pechino e Mosca. Ecco, in questo dove si situava il Partito Comunista Indonesiano? Era un partito, diciamo, influenzato e vicino a Pechino, più a Mosca? Era invece molto indipendente? Sì, allora il Partito Comunista Indonesiano è forse l'unico, o quasi l'unico al mondo, che non si è diviso in maniera lacerante sulla questione, diciamo, dei rapporti tra Unione Sovietica e Cinese. Non arrivo mai, diciamo, a rompere con l'Unione Sovietica o con la Cina, no? Cercò a lungo di tenere il rapporto con entrambi, e al suo interno appunto non si ruppe, cioè il gruppo dirigente si mantenne abbastanza unito. Tuttavia ovviamente prese delle scelte. A lungo, fino all'inizio degli anni 60, il partito innanzitutto era un partito che era legato alla figura di Stalin, uno Stalin forse diverso da come viene rappresentato qui, diciamo. Era diciamo, uno Stalin che veniva visto come il padre dell'Unione Sovietica, e diciamo, tutti gli altri discorsi che possiamo farci noi, giusti e giustamente, non venivano neanche presi in considerazione. Quando arriva Khrushchev, comunque lo tengono ancora, viene, insomma, trattato con rispetto, anche per motivi economici. Cioè, l'Indonesia aveva bisogno di armi, di finanziamento, e quindi cercavano di speronare la causa, diciamo, di avere buoni rapporti con l'URSS, per avere anche buoni rapporti economici con questo paese. Tuttavia, con il tempo, dopo gli anni 60, il partito si allontanò un po' alla volta dall'URSS e si avvicinò sempre di più alla Cina, senza mai rompere del tutto comunque con l'URSS. Che cosa succedeva? Il ragionamento è questo, fondamentalmente. Il modo in cui il partito cercava di guadagnare spazio era attraverso grandi mobilitazioni di massa. In questo senso loro sostenevano, diciamo, non la via della coesistenza pacifica, ma sostenevano invece un'idea di scontro con l'imperialismo statunitense. Avevano bisogno di tenere molto alta la tensione, perché avendo con una grande tensione interna contro, diciamo, l'imperialismo, non sarebbe stato possibile per Sukarno di allacciare buoni rapporti con gli Stati Uniti d'America. E quindi in questo caso, per questo motivo, sostenevano la linea di Pechino, che era la linea di quel blocco di paesi che andavano dall'Albania alla Cina, alla Corea del Nord, alla Cambogia, e quindi erano più resti, insomma, ad abbassare la tensione e a propagandare invece una visione di coesistenza pacifica. E alla fine nel 65 l'avvicinamento con la Cina era sempre più marcato, sia da parte di Sukarno che del Partito Comunista Cinese, al punto che quando poi avvennero i massacri, l'URSS non è che fece granché per denunciarli. L'unica cosa che gli interessava è che il governo, poi che ha preso il posto di Sukarno, pagasse i debiti che il paese aveva con l'URSS. Però uno dei motivi per cui appunto anche la memoria non è stata così, diciamo, si è un po' indebolita col tempo, è che l'URSS voleva dare anche un segnale a livello internazionale che, seguendo la linea di Pechino, vedete quello che succede, voi che dite che l'imperialismo è una tigre di carta, che poi diciamo che l'imperialismo vi distrugge. Comunque, appunto, la cosa importante che voglio dire è che non fu mai però un filo maoismo profondamente ideologico, era più strumentale, cioè il maoismo serviva per tenere alta la tensione nel paese ed evitare un riavvicinamento con gli Stati Uniti. Questo è un po' il ragionamento. Entriamo poi anche sul ruolo degli Stati Uniti, ma prima un'altra domanda è, magari se poi anche per i nostri ascoltatori molto brevemente raccontare diciamo dove inizia questo genocidio, perché insomma fino a poco fa insomma ci dicevi giustamente le relazioni con Sukarno erano insomma di un certo dialogo politico, ecco, poi cambia qualcosa, che cosa cambia? E soprattutto tu prima hai detto, certo, era un'organizzazione che dal punto di vista militare era molto debile, ma com'è possibile che un'organizzazione di milioni e milioni di militanti insomma alla fine fu repressa molto rapidamente e si sciolse quasi come neve al sole? Beh, una domanda, diciamo, non lo dire, da anni studio questo argomento perché cerco di dare anche una risposta a questa domanda e le risposte sono sempre insoddisfacenti. Guarda, Steve, noi vediamo organizzazioni politiche musulislamiche che vengono disintegrate, i loro leader vengono uccisi e continuano a rimanere in piedi in contesti ostili, penso a Gaza, e invece vedi che il Partito Comunista Indonesiano, 9 milioni di persone iscritte al partito o le organizzazioni affini che si scioglie come nel sole. Come è stato possibile? Quello, insomma, racconto un po' con l'antefatto, insomma, se sei d'accordo. Certo. Quello che accade, praticamente, come avevo detto, il partito non aveva grande forza da un punto di vista, diciamo, militare. Allora, che cosa accadde? Che, visto il timore di un colpo di Stato da parte dei militari anticomunisti, no? Il leader del partito, Aidit, senza informare la cupola del partito negli altri militanti, organizzò o si mise d'accordo con un gruppo di militanti, di militari di medio rango per realizzare un'azione dimostrativa che sarebbe consistita nel rapimento di 6 generali dell'esercito e di portarli a cospetto di Sukarno. E dinanzi a lui questi avrebbero dovuto ammettere, diciamo, le loro responsabilità politiche golpiste. È una cosa che può sembrare strana, ma rispondeva a una tradizione politica di rapimenti che era viva in Indonesia. L'indipendenza dell'Indonesia avvenne proprio anche con un rapimento, poi vabbè, non voglio dilungarmi su questo tema. Soltanto che tutto andò malissimo, i generali vennero uccisi invece che essere rapiti. E quindi subito dopo, non si attivò nessuna mobilitazione di massa nel paese, che secondo i piani invece doveva crearsi, e quindi poi scattò subito la reazione dell'esercito, che prese il controllo totale dei mezzi di comunicazione, iniziò lo sterminio. Aidit, il capo del partito, si nascose nella giungla di Java Centro, la parte centrale di Java, e da lì in poi non si seppe più nulla di lui, morì dopo una cinquantina di giorni, ucciso dall'esercito. Quindi il partito non sapeva esattamente che cosa era successo il 1 ottobre, non aveva una guida, era un partito con una leadership che comandava tutto, quindi non sapendo bene che cosa fosse accaduto quel giorno non aveva neanche la capacità di interpretarlo, di prendere decisioni. I militari cominciarono a uccidere centinaia di migliaia di militanti del partito in tutto il paese. Il partito sperava che Sukarno potesse proteggere il partito, ma Sukarno ormai era un burattino, non era più capace di prendere alcuna decisione, quindi non ci fu una resistenza. Questo è un po' il paradosso. A parte cose sporadiche qua e là, però l'esercito rimosse tutti i militari progressisti che ancora potevano proteggere il partito e in l'arco di 6 mesi riuscì a realizzare un massacro che secondo qualcuno arriva fino al 1 milione di morti. Però appunto questo significa che questa grande forza del partito, questi milioni e milioni di iscritti, in realtà forse non avevano neanche una preparazione ideologica e fisica militare tale da potersi difendere, perché se no non si riesce a capire come il partito non abbia potuto neanche organizzare uno sciopero, un tentativo di boicottare, cioè di sabotare la macchina militare, niente di tutto ciò. Quindi rimani un poco con anche l'insoddisfazione, perché vorresti parlare con Aidit e chiedergli: ma com'è che non stai facendo nulla? Com'è che non inviti la rivolta? Lui sperava che Sukarno avrebbe salvato il partito e invece questo non accade. Certo. E ascolta, e il ruolo invece degli Stati Uniti? Beh, è stato un ruolo importantissimo, praticamente. Da inizio della guerra fredda il loro ruolo fu centrale, la loro azione interna al paese, l'ostile al comunismo e a Sukarno si manifestò in tre modi. In primis attraverso il finanziamento di partiti politici di orientamento anticomunista, quindi i partiti musulmani come il Majumi e altri partiti di orientamento nettamente ostili al PKI. Però questa strategia non diede risultati, perché nel 1955 il PKI ottenne un brillante risultato, ottenne il 16%, e quindi era ancora un partito centrale. A quel punto iniziò una campagna di destabilizzazione militare. Gli Stati Uniti fomentarono un colpo di Stato interno al paese che consisteva fondamentalmente nella secessione di alcune isole e dando vita a uno stato ribelle che si chiamava PRRI, che mi sembra significa Repubblica Rivoluzionaria Indonesiana. Era un partito quindi composto da una repubblica guidata da militari di destra e da esponenti del Majumi, questo partito di centrodestra di cui ti parlavo prima, di stampo musulmano. Però che cosa accadde? Che finanche generali anticomunisti di Giava si opposero a questa secessione. Cioè, loro erano ostili al PKI, però erano nazionalisti, insomma, su tutti il generale Nasution, che pur essendo un nemico del PKI, represse questo tentativo golpista secessionista. Ed è a quel punto che gli Stati Uniti diedero vita alla terza politica, la terza strategia, la più raffinata e alla fine quella che si rivelò vincente, cioè quella di generare un clima di tensione nel paese attraverso una campagna di destabilizzazione massmediatica, di diffusione di notizie false, in più anche isolando l'Indonesia dal punto di vista economico, quindi in qualche modo non aiutandola economicamente. Infatti il paese era allo sbando negli anni 60, l'inflazione era veramente a livelli altissimi. In questo clima praticamente si temeva il colpo di Stato. In qualche modo l'obiettivo, che è stato poi scritto nero su bianco, era quello di fomentare un colpo di Stato del PKI. Questo era l'obiettivo degli Stati Uniti. E ovviamente essi avevano chiesto ai militari di realizzarlo, questo colpo di Stato. Allora cosa fecero loro? Invece di generare secessioni interne al paese, si rivolsero ai militari anticomunisti e iniziarono a finanziare soltanto loro, iniziarono ad aiutarli, a formarli, soltanto i militari che potevano essere utili per il colpo di Stato. Cosicché poi, quando si fu il tentativo di la sollevazione del 1 ottobre e questa fu un fallimento, quello che fecero gli Stati Uniti fu aiutare economicamente i militari, dargli armi, dargli supporto diplomatico, ma soprattutto a livello internazionale isolarono Sukarno, non si rivolsero mai a lui, lo isolarono, non gli permisero di parlare con nessuno, e a livello internazionale circolava soltanto l'opinione dei militari, circolava l'opinione secondo cui i comunisti erano stati responsabili di un colpo di Stato, avevano ucciso 6 generali, e quindi esisteva in questo momento una reazione popolare spontanea della gente normale, della gente comune che stava difendendo di fronte a un colpo di Stato filo cinese, e non raccontando mai i massacri, la quantità di sangue che si stava che stava inondando i fiumi dell'Indonesia. Quando poi non si poteva più nascondere che erano stati uccisi tantissimi comunisti, si costruì una sorta di narrazione orientalista secondo cui gli indonesiani sono persone calme e tranquille, ma a volte vengono presi da una furia omicida di massa, e che in questo caso si era rivolta contro gli atei comunisti che avevano provato a distruggere le tradizioni del posto. giusto. Questo è stato un po'. E poi ovviamente l'Indonesia venne reinserita nell'economia internazionale e si applicarono misure non dissimili da quelle che poi si applicarono in Cina, insomma. Cina. Quindi, sì. Beh, sì. Stiamo parlando tra l'altro di pochi anni prima, di meno di 10 sì. anni prima, in un contesto ovviamente dove la strategia degli Stati Uniti, come che tu ricordavi, deve essere anche inserita nell'inizio della guerra del Vietnam, o meglio dire nell'inizio di una partecipazione molto più massiccia degli Stati Uniti in Vietnam e nella cosiddetta teoria del domino, dopo sì. no, la guerra di Corea, la vittoria di Mao in Cina, e quindi evidentemente insomma in un contesto ben determinato e che appunto ha prodotto un genocidio di queste dimensioni. Ascolta, nei minuti che ci restano, Nicola, volevo che affrontassimo un altro tema come minimo, che è quello della memoria, ossia sì. Qual è la memoria o almeno la riflessione collettiva che c'è in Indonesia riguardo a questo genocidio, perché poi ecco, è bene anche ricordare che chi guidava quei generali era Suharto nel 1965, quando si dà no, il tentativo fallito del rapimento dei generali da parte del Partito Comunista Indonesiano e poi la repressione e l'immediato genocidio nell'anno successivo. E poi Suharto succederà a Sukarno tra il 1967 e il 68 e rimarrà per 30 anni al potere. Sì. Sì, la memoria è praticamente, insomma, non dico nulla, però insomma è ancora debole, è ancora una memoria molto debole rispetto ai massacri compiuti ai danni degli iscritti del PKI. Tu pensa che nel 66 venne approvata una legge anticomunista che proibiva la ricostituzione del partito e anche la diffusione di idee marxiste. Questa norma è ancora viva in Indonesia, quindi il marxismo è fuori legge. Gli indonesiani sono stati costretti a assorbirsi ogni anno un polpettone, un film di 4 ore che è disponibile anche su YouTube con sottotitoli per chi vuole farsi del male, in cui si racconta sostanzialmente la storia del 1 ottobre 65, in cui secondo cui appunto i comunisti erano dei criminali, certo, che certo. avevano compiuto dei spaventosi crimini ai danni dei generali. Quindi insomma tutto quello che hanno imparato gli indonesiani è stato che il PKI era una forza traditrice, una forza che aveva tradito la patria. Esiste un museo a Jakarta che è il museo del tradimento del PKI, che è un altro grottesco luogo in cui appunto si racconta una storia inesatta su quello che è accaduto quei giorni, e quindi in realtà si sa ben poco, la gente comune ne sa ben poco. Esiste qualche gruppo anche su internet, ci sono diversi gruppi che cercano di diffondere una narrazione diversa, però sono ancora gruppi fragili. Secondo Max Lane, che è uno dei più importanti studiosi dell'Indonesia contemporanea, in realtà questo tabù si sta rompendo col tempo, in realtà poco a poco le persone, la gente comune sa che la versione diffusa dall'esercito è una storia fasulla, una storia esagerata, che quindi insomma col tempo questo tabù si sta erodendo. È stato recentemente girato un film in Indonesia che parla delle Exil, con la K, in cui si parla degli esuli indonesiani in Europa che se ne sono andati e sono stati apolidi per molti anni perché hanno perso la cittadinanza e raccontano la loro storia. Questo film, secondo lei, ha avuto un grande successo, inaspettato successo in Indonesia. Però appunto, insomma, siamo ancora agli inizi. Dopo 60 anni siamo ancora agli inizi, cioè, non c'è nulla di simile a quello che vediamo in Argentina o in Brasile o in Cile, in cui c'è un orgoglio di classe, un orgoglio si può parlare contro il regime fascista, insomma. Questo in Indonesia purtroppo ancora non c'è. Addirittura tu pensa che quando hanno provato a recuperare i resti delle persone assassinate, sì. spesso sono arrivati i gruppi islamici radicali a interrompere queste azioni, insomma. Quindi è ancora un processo molto, molto complesso, sì. Molto lento e complesso. Speriamo che qualcosa si insomma cambi nel futuro. E guarda, rapidamente telegrafico, perché ci resta poco tempo, però un'ultima domanda che ha ancora a che fare anche con tutto questo è, insomma, l'Indonesia è uno dei paesi più popolati e anche grandi in fin dei conti al mondo, insomma sono 260, se non sbaglio, milioni di abitanti, una cosa del genere, e perché se ne parla così poco? Non solo riguardo, voglio dire, anche a questa drammatica storia del genocidio che tu hai raccontato nel tuo libro, ma proprio in generale, perché stiamo parlando di un paese importante, importante anche geopoliticamente per dove si trova, tenendo conto di come l'Indo-Pacifico stia diventando, insomma, uno dei centri anche delle tensioni internazionali. Guarda, io non ho una risposta definitiva, provo a dirti che secondo me una parte della risposta sta nel fatto banalmente linguistico, cioè l'Indonesia è un paese in cui si parla una lingua che non si parla da nessun'altra parte, e la loro eredità olandese coloniale è molto debole, quindi questo, mentre in Vietnam il francese è rimasto una lingua di comunicazione, in Indonesia invece non c'è, diciamo, un collegamento culturale forte. Questa può essere una parte della risposta, però io penso, anche qui tornando al genocidio anticomunista, secondo alcuni studiosi, penso a Jeffrey Robinson, con il genocidio del 65 è stata anche disintegrata tutta una classe culturale, diciamo, che era colei che aveva in qualche modo reso, diciamo, che aveva costituito, come posso dire, l'anima culturale del nazionalismo, del patriottismo indonesiano, no? E diciamo, sono stati uccisi, eliminati i più grandi intellettuali, è stato arrestato il più grande scrittore indonesiano, Pramoedya Anantatoer, i cui libri sono, insomma, circolano e sono bellissimi, e quindi probabilmente, diciamo, per almeno una generazione o forse due, l'Indonesia ha espresso poco anche da un punto di vista culturale. Potrebbe essere una parte della risposta. Poi ci possono essere anche altre risposte, però è vero, insomma, che un po' tutto quello che accade, non è, diciamo, tu parlavi del ruolo geopolitico, sì, è importante, però non è, per usare un termine proprio di geopolitico, di geopolitici, il heartland, cioè non è il cuore della geopolitica, sì, sì, la geopolitica sì, è il Medio Oriente, e poi ci sta un'attenzione per il Sud America, però l'Indonesia è un po' come l'Africa, da un punto di vista politico non la capiamo, non riusciamo a connettere, diciamo, con questo grande paese. Bene, grazie mille davvero Nicola, grazie anche per aver scritto questo Arcipelago Rosso, lotta politica e genocidio in Indonesia 1914-1968, che è uscito per Mimesis da pochissimo e che tra l'altro il prossimo 10 aprile alle 18.30 si presenta alle librerie italiane Le Nuvole, a Gracia, Carrere Saliuis 11, dove ci sarai tu e sarai accompagnato dal giornalista Michele Catanzaro. Nicola, grazie davvero di essere stato con noi e alla prossima. Grazie a voi, grazie, ciao. Yo, gotta breathe the funk bed out here, man, it's time. Where my peepers at, where my homeboys at. Come on. Remember the days, the Uzi with the gun. Ready to jump down. Scared or not, get into it, get in form right here. Sampai pagar kalah serupa para menjaga nyala api asal di tengah rawa berasa mata bagi penas biar tertata bagi mata medusa dan untuk menagih nyawa bagi kuasa yang kotor baru dengan bencana sambut petang berhala tutunjukkan kau bencana depan itu mekan sempat kau dan berkepala baca siliwangi yang dipegang buat terdakwa air subuh berbusa lagi hitam jelaga udara bertarik lesari bayi ini berpisah kau iman yang menghamba terbat yang kusara tercakai serang tombol yang mengobrak kadang-kadang sengsara yang terjaga pasca bencana iman di silaukan dunia tak simbol asuna masa cari waras gila menyaingi utopia susahil barang dunia pesanan pentas pak tentara matara ku kabarkan pria neraka yang sodong bomoran gula sama barisan berala tiga kau jadikan jalur sumber pahala kau tumbuh semua surga dengan bangkai para pendosa iman sumber sangkala prosa menolak kalah 50 waktu yang berkat cinta bendera lagi perkara bukan lagi besar jika ribuan mimpi satu barisan bukan bendara dalam serupa para satuan lima Bosa Babel. Andremo avanti su tutti i fronti. Dopo la sconfitta, al referendum sulla giustizia, la premier Meloni rivendica un'inesistente vittoria e minaccia i finlandesi con rinvio di La Russa e Fontana in quel paese. Le istituzioni funzionano troppo bene, è un pericolo per il mondo. Diffuse le prime immagini di Spider-Man e Brand New Destra. Sale l'attesa per l'uscita del film, un grande cambiamento attende il supereroe dell'universo Marvel. Derubato da giovani che lo avvicinano fingendosi tutti leader del campo largo, voci sulla presenza di Calenda nel cast, irritazione dai fan di tutto il mondo, basta, si è superato il limite. C'era una volta il regno del gioco e delle follie, ora c'è Trump che minaccia. Andremo avanti contro l'Iran, fino al taglio delle accise sui carburanti. Anche in Italia, un macchinario di Israele veicola ultrasoni per intervenire su aree millimetriche del cervello. Di Salvini, che diventa un pomodoro. Cordoglio bipartisan per un protagonista coraggioso, un leader appassionato e democratico, dice Mattarella. È scomparso il Chuck Norris, fondatore della Lega, salutato fra gli applausi e accompagnato da calci e pugna e dall'evasione fiscale di centinaia di militanti con striscioni e camicie verdi. L'omaggio commosso di Tajani. Ciao Bruce Lee. Ma io non ho capito, Banzo, cos'è che ha detto Tajani? Bruce Lee ha detto, vabbè, comunque sono tornate le ultimissime di Faust che salutiamo e ringraziamo. Sì, sì, Tajani ha detto Bruce Lee sempre sul pezzo, grande Tajani, molto molto presente a se stesso direi, però effettivamente era comunque scomparso il leader di un partito della sua coalizione, cioè Chuck Norris appunto che... Beh, diciamo che forse in una realtà parallela, perché sappiamo a volte le ultimissime forse arrivano da un tempo linea differente, diciamo che forse Chuck Norris aveva comunque delle idee politiche non così incompatibili a quelle del leghista standard, e in effetti centinaia di militanti festeggiavano scagliando calci, pugni e evasione fiscale. Quindi io direi che è tutto correttissimo, Steven, è proprio questo, era proprio il luogo giusto. E poi a livello di altre cose, non perderti, se hai tempo per andare al cinema, questo Spider-Man Brand New Destra, che non so se parlerà dell'alt-right, credo che ti possa interessare anche professionalmente, diciamo, no? Lo cercherò. Studioso, lo cercherò. Come studioso dei fenomeni dell'estrema destra. Ecco. Fenomeni paranormali. Musicalmente invece abbiamo ascoltato un altro brano che ci arriva dall'Indonesia, era il 2006 quando usciva questa mega tucad degli Homicide, una storica banzo band hip-hop di Bandung in Indonesia, tra l'altro con una storia molto importante anche legata ai movimenti sociali. Beh sì, io devo dire, sono un fan degli Homicide, benché non ne capisca i testi, è inutile nascondersi, so di cosa parlano per somme linee, ovviamente il messaggio che è diciamo per improntata una forte coscienza politica, c'è un'etica punk, un movimento grassroots per la democrazia di base eccetera. Però li ho amati per la grandissima botta della loro musica, non sono un grande fan dell'hip hop, ma mi piace la musica potente, questo brano è potente e diciamo che è anche un buon esempio del loro eclettismo musicale, perché andavano a pescare da influenze, vabbè, Public Enemy per un gruppo hip hop, politically conscious, sono molto facili. Però andavano a pescare delle influenze molto lontane dall'hip hop, cito qualche nome tipo i Crass, i This It, grandissimo gruppo sperimentale fino agli anni 70, primi 80, i Neurosis che sono appena tornati con un disco nuovo che è una bomba, quindi cose lontanissime dall'hip hop, e effettivamente facevano anche un po' comunella con la scena rock, hardcore, punk di Bandung. E diciamo che sicuramente avere dei testi così politically conscious serviva un po' ad allontanare la scena dall'ostentazione di ricchezza, che è diventato un tema quasi egemone nell'hip hop, e si sono anche dedicati negli anni 90, che sono formati intorno al 94, a cose leggere come invocare una rivolta contro Suharto, cioè una cosa che immagino potesse avere delle conseguenze politiche molto molto pesanti. E come? Noi andiamo avanti, ci ascoltiamo l'ultimo brano della scena indonesiana, si titola Celestia, molto più recente, di 5 anni fa, il 2021, e altro genere musicale tra l'altro, loro si chiamano Kuntari, questo progetto, sentitevelo. Banzo, qui è proprio tutt'altro genere, no? Innanzitutto attuale, ma soprattutto siamo in una scena alternativa e un brano strumentale. Beh sì, è una puntata nella quale ci è piaciuto ricorrere all'eclettismo, diciamo, e i Kuntari peraltro sono a loro volta molto eclettici, perché forse si sente qualcosa in questo brano, partivano da un retroterra jazz per arrivare poi a questo suono che loro definiscono primal core, diciamo questa definizione, come tutte le etichette inventate, ecco, però suggerisce qualcosa, diciamo, sulla visceralità del loro suono. C'è un elemento anche percussivo molto forte in questo brano, meno magari, questo è scritto da Celestia, e sì, comunque c'è questa forte volontà sperimentale, questi suoni abissali alle volte, che un po' vogliono ristabilire questa connessione primordiale fra uomo e ritmo, e hanno questa discografia, boh, su Bandcamp sono tutti singoli, e andate un po' a spulciarli se volete, e suoneranno a breve a Barcellona nell'ambito del Festival Miceli, che si svolge fra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Credo suoneranno alla Sala Laut, ma non ho capito se i biglietti sono ancora disponibili, perché nel tal caso ci andrò assolutamente, E comunque l'Indonesia è una terra di grandi duo musicali, perché ci sono anche i Seniawa, che non abbiamo trasmesso, che vi consiglio di andare a recuperare. È un altro genere, ma anche lì c'è molta visceralità. Andiamo a bomba banzo in questi ultimi minuti, perché abbiamo il tempo per anche far ascoltare un brano, una nuova uscita che ci arriva dall'Italia, Sirio B di Coco Moon e Marta Del Grandi. Telegrafico, spiega ai nostri ascoltatori perché merita di essere ascoltata questa canzone. Allora, innanzitutto per la collaborazione fra due artiste assolutamente degne di nota. Marta Del Grandi l'abbiamo già seguita e parleremo del suo ultimo disco Dame Life nel corso della nelle prossime settimane, credo, non so esattamente quando, ma ne parleremo. Coco Moon ha da poco pubblicato un nuovo album, ed è infatti il brano è suo e quello di Marta Del Grandi è un featuring, e l'album si intitola Let the Wild Run at Night, ed è un disco che, diciamo, potrebbe andare bene come colonna sonora di un'ipotetica nuova serie di Twin Peaks, che purtroppo non ci sarà perché David Lynch è scomparso. Quindi è la seconda prova solista di Coco Moon, il cui vero nome è Costanza Delle Rose, ed era stata la cantante bassista per molti anni dei pesaresi B Forest. L'album è prodotto da un'altra vecchia conoscenza di Zibaldone, Tobia Poltronieri, dei C+C Maxi Gross. E ce l'andiamo ad ascoltare e poi rientriamo per i saluti finale e l'ultimo trago. Eccola qui, Sirio B. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Zibaldone, ci resta il tempo banzo solo per l'ultimo trago, come sempre un viaggio in qualche paese, a volte lontano, a volte non tanto, trovando traduzioni e interpretazioni in altre lingue di canzoni in italiano. Dove finiamo questo 27 marzo? In Cecoslovacchia, Steven, perché, e dico Cecoslovacchia non a caso, perché torniamo al 1972, quindi evidentemente c'era ancora uno stato unitario e non i due di adesso, perché con questo brano vogliamo rendere un omaggio a Pasquale Canzi, noto come Pachi, storico cantante e tastierista dei Nuovi Angeli, che è scomparso il 15 marzo all'età di 78 anni. E quindi, si è capito, andremo a proporvi un brano dei Nuovi Angeli. Vi abbiamo fatto sentire Singapore nell'ultimo Respinti all'Ariston circa un mese fa, e adesso andiamo con l'altro grandissimo classico dei Nuovi Angeli, che è ovviamente Donna Felicità. E sì, è stato coverizzato in Cecoslovacchia. Poi, guarda Steven, su Instagram ho scoperto che esiste un sacco di musica occidentale coverizzata in Cecoslovacchia, non so, forse è un po' in epoca comunista, forse un po' settoriale come spunto per una puntata, ma io lo lascio lì. Va bene. E quindi andiamo a parlare della versione ceca o cecoslovacca, uscita nel 72, cioè un anno dopo l'originale, cantata da Victor Sodoma. Io credo che l'accento corretto sia questo, perché se no sarebbe abbastanza curioso. E il brano in ceco si intitola Stale mi vicita, che significa in realtà mi rimprovera sempre, quindi diciamo che hanno cercato di mantenere il testo foneticamente, perché adesso quando lo sentirete certo, proprio la metrica è perfetta, però ecco, significato hanno tutt'altro. Completamente. Sì, sì, esatto, perché a volte gli adattamenti funzionano anche così. Il testo è stato scritto dal suo musicista František Ringo Čech. Ringo non so se sia un soprannome o il suo vero secondo nome, batterista e attivista politico, è stato condannato anche nel 63 a 3 anni di carcere, poi amnistiato, ma è stato anche attore, comico, giornalista, sceneggiatore, insomma una vita molto piena. Fra le altre cose ha scritto il testo della versione cecoslovacca di Donna Felicità dei Nuovi Angeli. Quindi, insomma, fantastico, ha saputo approfittare del tempo che gli ha dato la vita. Noi siamo giusto in chiusura, quindi ci salutiamo con questo brano, ci ritroviamo non la prossima settimana ma tra due settimane, perché la prossima ci prendiamo anche noi vacanze, e quindi buona Pasqua, buon venerdì sera e buon fine settimana. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 17.57 diceva tutti i venerdì. No, alla fine ho cambiato idea, mi unisco anch'io al cordoglio di italiani. Ciao Bruce Lee. Ciao Banzo, buona Pasqua anche a te. Donna Felicità in ceco, cosa volete di più? Stále mi vicita, a povykuje stále mi vicita, že zima bije a pod modrou oblohou mé štěstí, má milá se stále hrou. Stále mi vyčítá, prý vlhkotu je a pod modrou oblohou mé štěstí, má milá se stále hroutí. Pohlédnout se na svým, když nás jiná dívka míjí, míjí. Přátelé mě nezvou, raději se před ní skryjí, skryjí. Stále mi vyčítá, že je tu Petro, stále mi vyčítá, už je to jedno, chvíli poté naříká, na cesty kamení prý boty ničí. Stále mi vyčítá, proč nepospíchám, stále mi vyčítá, a já udýchám, za svou milou utíkám, neštěstí, proč se jenom stále hroutí. Tak označit musí, naši lásku to mě mrzí, mrzí. Pomoci mi není, nevím, co mě u ní drží, drží. Stále mi vyčítá, když jdu na sklenku, stále mi vyčítá. A čeká venku a pod modrou oblohou, ve štěstí, má milá se stále hroutí. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.